Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Years. years. Radiazione, diretta d'azione, oggi a venerdì 6 marzo, come tutti i venerdì, la diretta di radiazione prevede solo controinformazione. Se ci sono riflessioni, provocazioni, si faranno, altrimenti leggeremo la controinformazione e ovviamente intervalleremo il tutto con la musica. Ricordo che invece l'appuntamento con le letture di radiazione è per lunedì, quando qui con me ci sarà Marcello e leggeremo insieme Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org, la mail dove potete mandare scritti, comunicati, mail, vabbè, ovviamente mail, comunicati, notizie riguardanti il pianeta anarchico, no, il pianeta nel senso della... del pianeta, il pianeta, insomma, l'ambiente anarchico, non comunista, no, antifascista, quello non lo pubblichiamo. Oppure dove potete anche mandare suggerimenti per quanto riguarda i futuri testi da leggere con Marcello durante il lunedì. Ricordo sempre, mai testi anarchici li conosciamo, ma testi di narrativa, romanzi che comunque hanno delle tematiche affini. Non mi mandate, non lo so, La capanna dello zio Tom. Può essere quella, la leggeremo, ma altri testi no. Il sito di radiazione, radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast nella pagina fatta apposta, dove troverete tutti i podcast degli ultimi 3 anni. E dove potete anche scaricarvi un bel po' di materiale nella pagina download. Ricordo sempre, ci sono opuscoli, libri, manifesti, CD, musica, insomma tutto quello che i compagni mettono a disposizione, e per farlo distribuire gratuitamente, scaricare gratuitamente. Chi lo invece lo scarica e lo distribuisce, se fa un pensierino alle casse anarchiche, quelle casse che praticamente si occupano di assistere economicamente ai compagni detenuti, sarebbe un gesto carino da parte vostra. Quindi ricordatevi che esistono le casse anarchiche. Il sito di radiazione è bilingue, oltre a quello in italiano, ricordo c'è anche il sito in croato, a cui potete accedere attraverso il banner che trovate sulla pagina del sito in italiano di radiazione. Sulla sidebar ci trovate il banner, ci cliccate e vi si apre il sito in croato. Sito di radiazione e radio che trasmettono dal server di del compagno che ci ha messo a disposizione, su cui c'è ospita il compagno di The Anarchist Library, che sarebbe anarchia.net, compagno che ringraziamo e salutiamo sempre ogni diretta. Lo ringraziamo perché se siamo in diretta, se il sito di radiazione c'ha la possibilità di essere aggiornato quotidianamente, e anche grazie all'ospitalità che il compagno ci ha dato sul proprio server. Questo era per quanto riguarda gli indirizzi utili di radiazione. Oggi l'abbiamo fatto già venerdì, ma purtroppo la controinformazione arriva solo da una nazione, la Grecia, e anche oggi leggeremo buona parte della controinformazione dalla Grecia, a parte qualche aggiornamento dalla AS2 di Ferrara, dove ricordo nella settimana precedente ci sono stati alcuni provvedimenti punitivi da parte dei bastardi della direzione carceraria nei confronti dei compagni detenuti nella sezione. Ora ci ascoltiamo un brano, Big Black, Bazooka Joe è il brano, Big Black è la band, e poi torniamo, sto ancora un po' ricoglionito, poi torniamo qui e si parte subito con la controinformazione. erano Big Black con il brano Bazooka Joe. Ora, come dicevo, si parte con la controinformazione e partiamo con un comunicato importante che arriva dalla Grecia, un annuncio da parte delle CCF, cellula dei membri detenuti. Due mesi fa è stato scoperto il nostro piano di fuga dal carcere di Korydallos. È qualcosa di cui ci prendiamo la piena responsabilità e abbiamo fatto un'autocritica. Dopo di questo è iniziata una caccia senza precedente ai presunti colpevoli. La meta, le nostre famiglie e i loro amici. Abbiamo visto che due giorni fa sono stati arrestati l'amico del fratello di Yorgos Polidoros e amico personale di Christos Gerasimos Tsakalos. Hanno iniziato quindi a parlare di membri regionali, mailer e fondo rivoluzionario. Per cosa? Per una borsa di vestiti, per alcuni soldi dai contributi e iniziative solidali. O famosi spara laser? L'uomo accusato non sapeva neanche che c'erano dei laser nella borsa. Inoltre è da notare che questi laser sono giocattoli venduti a 2 euro a Monastiraki, con i quali si voleva creare confusione nel momento dell'attacco. Perché l'agenzia antiterrorismo non lo dice, ma al contrario li presenta come delle armi. E così oggi vediamo la madre di Christos e Gerasimos Tsakalos essere arrestata assieme alla moglie di Gerasimos, perché Angeliki Spiropoulou è stata trovata nella loro casa di famiglia. Angeliki è una compagna rara e siamo legati a lei con un'affinità politica assoluta. I due compagni le avevano detto che se mai si avesse trovato in difficoltà poteva andare a casa loro, perché noi non abbandoniamo né le nostre idee né la nostra gente. Angeliki era ricercata da tanto tempo ed è andata a casa loro chiedendo di essere temporaneamente ospitata dalla loro madre. Cosa avrebbe dovuto fare la loro madre? Chiuderle la porta? Lei non è questo tipo di persona e conosce i valori dell'umanità per una persona ricercata. Nella casa si fermava ogni tanto per motivi familiari anche la moglie di Gerasimos Tsakalos. Per questo motivo si trovava anch'essa là. L'intera responsabilità è solamente nostra. I familiari e i loro amici non hanno nessuna responsabilità, non hanno niente a che fare con il caso e con le accuse. Per quanto riguarda Angeliki, saremo con lei e lei sa che ha il nostro sostegno. Lei sarà tra di noi, con la testa alzata sulla difficile strada che abbiamo scelto. Ma non staremo qua seduti a guardarli cannibalizzare, cioè io l'ho fatta, i nostri familiari e i nostri amici. L'agenzia antiterrorismo ha oltrepassato la linea, noi siamo i loro avversari, noi e i nostri familiari. Questo è, quindi da oggi 2 marzo entriamo in sciopero della fame fino alla morte per proteggere i nostri familiari e i loro amici in modo che non finiscano in galera. La responsabilità è solo nostra e noi ce l'assumiamo fino alla fine. Se li mettono in carcere noi preferiamo scegliere la morte. Questo significa la responsabilità e ognuno fa le sue scelte. Rilascio immediato dei nostri familiari e dei loro amici che non hanno nulla a che fare con questo caso. Cospirazione delle cellule di fuoco, cella dei membri detenuti, e poi ci sono tutti i nomi dei compagni detenuti in Grecia appartenenti alle cellule, alla cospirazione delle cellule di fuoco, di cui abbiamo letto il testo. Questo era il primo, la prima notizia di controinformazione. Ovviamente si è andata subito alla precedenza in quanto molto importante per questo sciopero che i compagni stanno intraprendendo, hanno intrapreso in Grecia. Dopo aggiorneremo anche, diremo anche tutto su quello che è stato l'arresto di Angeliki e della mamma, di la madre e la moglie del fratello di Gerasimos Tsakalos. Ora ci ascoltiamo un brano. Il brano è di Bariton, una band greca, quindi il titolo nemmeno ve lo leggo, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Thank you. φλογισμένη σαν τη λάπα. Σαν στο αίμα μου να ρέει. Την νιώθω να μιλάει, την ακούω να μου λέει. Πως αν ανοίγω την ψυχή μου αυτή δεν θα καταραίει. Το λόγο αν στυλώνω, το μυαλό μου δεν στυρώνω. Πιο μετά δεν καμαρώνω. Μόνο γράφω και τα χώνω. Για τη λύπη, για τον πόνο. Για την καρά και για το φόνο. Ανασένω και πεισμόνω. Τι ξεφτύλα χαρακώνω. Δεν τα βρίσκω με το χρόνο. Τα λεπτά μου αναλώνω. Με την πάρτι μου μαλώνω. Γεγονότα σημειώνω. Στο μεθύσι μου ραγιώνω. Μόνο και μόνο για να διώχνω. Παραστράτημα μεγάλο και μπορώ και μετανιώνω. Για τόσες φορές μου έκλεισα την πόρτα. Σε αυτά που αγαπούσα, εγώ χάρισα μια νότα. Άλλαξα πορεία και χαράζω μια ρότα. Αδικία μόνο νιώθω, μου βρωμίσανε βραχνότα. Πώς μπαίνω και παλεύω, μοναχός μου όπως πρώτα. Περάσανε τα χρόνια σαν εικόνα μια βόλτα. Πώς αυτή είδα πολλά, πολλά. Σκοτάδι και τα φώτα. Τον ήλιο και τη φλόγα, την υφίτσα και την κότα. Φωτιά σώθηκα μου με εμπειρία μεγαλώνει. Ποτέ τη δεν τελειώνει, μόνο τη βλέπω και φουντώνει. Αυτή με δυναμώνει, ολότελα με λιώνει. Σαν πειρακτωμένη πλάκα με σκεπάζει και με σώνει. Τη μιζέρια σε βολεύει και το θάρρος σε σηκώνει. Στο χαρτί με σηκοντάρει και ποτέ δεν είναι μόνη. Και ποτέ δεν είναι μόνη. Η φωτιά στα σώθηκά μου με εμπειρία μεγαλώνει. Πειρακτωμένη άφησο με κλείνει με συντρίμια στην αρένα. Μην αρέσει να παλεύω με αγρίνια. Παγωμένος ο καιρός, στολισμένος με ασχήνια. Οι θεατές που είναι γύρω να φωνάζουνε με λύσα. Αφού πέσαν όλοι μέσα στο λάκκο με την πίσα. Στα ωραία βολευτήκαν και γκρεμίσαν. Ότι χτίσαν αυτοί μονά για το μέρος. Το καιρό τους καλαλήσαν. Ψευδομάρτυρες στη δίκη μου με λόγια τη στολίσαν. Που ξεχάσανε τη φλόγα και το πείσμα τώρα χτίσαν. Έτσι παίρνω το δαυλό, μια κιθάρα για ρυθμό. Πανοπλία δεν φοράω με το σώμα μου γυμνό. Εγώ δεν φόρεσα τη μάσκα, ούτε ωραία προσωπία. Τους άλλους τα βολεύει να μου χρεώνουν αμαρτία. Πως και πάσανε θυλά τη δικιά τους προδοσία. Μόνο ρίξανε μια σπίθα. Μόνο ρίξανε μια σπίθα ρε. Κι άναψε φωτιά. Έχεις τα εσωτερικά όμως ποτέ δειλά δειλά. Μόνο κοπανιά. Χρώματα πολλά, ανοιχτά και καθαρά. Που μόνο τους φωτίζουν τη νύχτα σταθερά. Και καλύτερα γεμίζουν ό,τι πάγωσε γερά. Την επιφάνεια οι λέξεις τώρα βγάζουν φτερά. Επιφάνεια οι λέξεις τώρα βγάζουν φτερά και πετάνε μακριά. E questi erano i Bariton con il brano Bu, non lo sappiamo, non sappiamo pronunciarlo perché il titolo ce l'ho scritto in greco, quindi non saprei pronunciarlo assolutamente. Allora, abbiamo detto all'inizio della diretta che la diretta verte tutto sulla Grecia e quindi continuiamo con la notizia, con le notizie in special modo su quelle che seguono e hanno anticipato anche lo sciopero della fame fino alla fine, come lo chiamano i membri detenuti della CGF, riguardando gli arresti sia della compagna Kelly Spiropulo che a quello della madre dei compagni Gerasimos, dei fratelli Gerasimos e Christos Zakalos. Allora leggiamo gli aggiornamenti, due righe sugli aggiornamenti. Lunedì 2 marzo la compagna anarchica Kelly Spiropulo ha iniziato uno sciopero della fame richiedendo il rilascio immediato dei familiari di Gerasimos e Christos Zakalos. Invece un altro testo è quello di Panos Mikaloglu, in solidarietà con i prigionieri anarchici delle CCF in sciopero della fame. Il testo dice: nella guerra che stiamo vivendo fuori e dentro il carcere e nella lotta che stiamo facendo, nessun compagno è solo. Così, di fronte alla vendicatività mostrata dall'antiterrorismo e dagli investigatori speciali nei confronti dei parenti e amici dei membri della cospirazione delle cellule di fuoco, il minimo che io possa fare, essendo incarcerato, è astenermi dal cibo in carcere. La solidarietà è la nostra arma migliore, nulla è finito, tutto continua. Mercoledì 4 marzo, Panos Mialakoglu, prigioniero anarchico di guerra. E questi sarà i due aggiornamenti, sia su Panos che su Aghelì, che entrambi praticamente iniziano uno sciopero della fame. Ora ci ascoltiamo ancora un altro brano, loro sono A Place to Bury Stranger, il brano è Lost Feeling e poi dopo si torna qui e ancora Controinformazione. Please to Body Stranger, il brano Lost Feeling. Ora si ritorna alla controinformazione e allora spezzettiamo un attimo sta quello che sarà la seconda diretta consecutiva sulla Grecia, andando in Italia, dove ci sono ulteriori aggiornamenti. È un comunicato dei prigionieri anarchici dalla S2 di Ferrara. Domenica 1 marzo 2015, mandiamo poche righe per le ultime novità e completamento della nostra vicenda. Il 28 febbraio Alfredo è tornato dall'isolamento, lo stesso giorno è stato portato via Graziano. È la conseguenza del rapporto che tutti, Adriano, Fra, Graziano, Lucio, Michele e Nicola, abbiamo ricevuto nei giorni successivi alla nostra protesta. Siamo accusati di avere nelle giornate 13, 14, 15 insultato le guardie e di udite disordini e sommossa. Articolo 77, regolamento esecuzioni penitenziario. Un'accusa forte, troppo generosa, ma della quale non possiamo che essere fieri. Pertanto, dopo il consueto processino, ovvero il consiglio di disciplinare con il direttore, comandante, medico e capoccia vari del carcere, siamo stati tutti condannati a 15 giorni di esclusione dalle attività comuni. La punizione sarà eseguita nei tempi e nei modi più comodi alla logistica carceraria. Non sappiamo quindi se andremo alle celle ogni 15 giorni, uno alla volta, ma sappiamo che nei prossimi mesi ognuno di noi finirà in punizione per 2 settimane. Nel frattempo sono stati trasferiti qui ad Alessandria Gianluca e Franco, in questo momento pertanto siamo 9 in 6 celle. Un abbraccio a Graziano, i compagni anarchici della sezione AS2 del carcere di Ferrara. E questa era la notizia riguardante casa nostra, l'Italia, che infiliamo nel contesto greco di oggi, perché dall'Italia non arriva mai un cazzo, e fortunatamente, perché le notizie sono quelle che i compagni devono essere, non solo devono sobbaccarsi la galera, ma devono anche subire le rotture di coglioni, come quella di una guardia che ha lo stereo alto e poi se ti lamenti vai in punizione. Insomma, preferiamo non raccontare un cazzo dall'Italia. Quando io dico, precisiamo una cosa, quando io dico che purtroppo dall'Italia non arriva niente, non è che è una mia lamentela perché in Italia non si fa un cazzo, cioè non succede, non è questo, anche perché, cioè, se non succede un cazzo non succede nemmeno per colpa mia. Quindi quando dico non arriva niente è perché non c'è niente, non c'è niente, è la realtà dei fatti. A parte litigi, scazzi, il tema è sempre lo stesso, notav, gli infami, è scada su una... tutte le cose che si porta dietro, non c'è veramente nulla in Italia. Quindi compagni dall'oltreoceano o dalla Est Europa, non guardate all'Italia come la galassia anarchica. Questo è il deserto più assoluto degli ultimi 20 anni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono di Algorithm, il brano è Logic Bomb, e poi dopo si torna qui e si ritorna in Grecia. questi erano di Algoritmo con il brano Logic Bomb. Ora si ritorna a quelli che sono i comunicati che arrivano dalle carceri greche riguardo allo sciopero intrapreso dalle CGF e da altri compagni. Quello che andiamo a leggere è uno dei membri detenuti delle CCF, articolo che ancora non trovare, che troverete pubblicato su Radiazione subito dopo la diretta, ed è il testo del compagno Yorgos Polidoros, anche lui in sciopero della fame ovviamente, tra l'altro testo inviato ai media. Da primo momento noi 10 membri della CCF abbiamo rivendicato la responsabilità per il tentativo di fuga dal carcere di Cori dall'Os quando è stato scoperto. Negli ultimi 5 giorni abbiamo visto i nostri parenti e i loro amici aggrediti e portati via, loro che non hanno nulla a che fare con il caso, e inoltre l'arresto della madre di Christos Gerasimos Tsakalos e della moglie di quest'ultimo. Il coinvolgimento in organizzazione terroristica di cui sono accusati dall'unità antiterrorismo è ridicola ed insostenibile. Stanno riferendosi ad una madre di 60 anni e alla moglie di un membro della CCF, con il pretesto che sono sospettate di fuggire. Stiamo parlando di persone che hanno residenze stabili e che ci stavano facendo visita nelle ore di colloquio in carcere. Chi vogliono prendere in giro con le porcherie dell'antiterrorismo? Stiamo sperimentando un momento dove l'unità antiterrorismo sta facendo quel che vuole ed ha superato ogni limite in amoralità senza render conto a nessuno. I loro nemici politici siamo noi e non i nostri parenti. Se vuole colpire qualcuno, colpisca noi e la smetta con le pagliacciate. Sappiamo anche che oggi ci sono valutazioni della polizia, così ognuno può capire che è stato fatto un gioco sporco dietro a tutto ciò e che hanno allestito lo spettacolo per ottenere promozioni. Da lunedì 2 marzo noi tutti e i 10 membri della cellula abbiamo iniziato uno sciopero della fame fino alla morte per la liberazione dei nostri 4 tra parenti e loro amici. Non hanno nulla a che fare con le nostre azioni, li dovranno liberare o si preparino a contare i loro primi prigionieri politici morti. Inoltre sosteniamo lo sciopero della fame in corso nelle carceri per l'abolizione della legge antiterrorismo, la legge sugli incappucciati e le leggi di tipo C, la situazione che l'unità antiterrorismo ha creato per le nostre famiglie è la conseguenza più evidente della legge del terrore ed apre nuove prospettive. Quest'ultima parte io c'ho un bel po' da dire, tanto di cappello a chi fa uno sciopero della fame fino alla morte per rivendicare anche i propri familiari e gli amici dei propri familiari. Ma quella frase in un corso nelle carceri per l'abolizione della legge antiterrorismo, la legge sugli incappucciati e le carceri di tipo C mi piacciono di meno. Noi non dobbiamo chiedere l'abolizione di nessuna legge. Gli anarchici non chiedono abolizioni, gli anarchici devono distruggere, non chiedere l'abolizione. Quindi quest'ultima frase forse il compagno Yorgos Polidoros se la poteva anche evitare, visto che sta in galera per aver fatto e rivendicato un bel po' di azioni che non sono i lenzuoli appesi oppure la sbombolettata, ma sono azioni che di una certa consistenza, di cui hanno rivendicato le CCF in toto. Approfitto anche di questo che ho buttato lì, ma non c'era nessuna intenzione, poi dopo mi sono ricordato, sul sito di Radiazione non è apparso il lenzuolo che molto generosamente compagni in Grecia di uno squat hanno messo in solidarietà per la compagna che porta avanti Radiazione in croato e Radiazione in generale dopo la storiaccia della visita dei servizi segreti croati. Noi non pubblichiamo i lenzuoli appesi, cioè, ci fa piacere il gesto, ma evitiamo di mettere queste cose. E poi stiamo ancora a piede libero, quindi se proprio volete appendere un lenzuolo, appendetelo per i compagni detenuti a noi. Fortunati, oltre alla rottura di coglioni, non ci hanno fatto nulla. Ciò nonostante, mandiamo un saluto ai compagni dello squat che hanno manifestato la solidarietà con Radiazione. Non capita sempre, molto spesso ci mandano a fanculo, ma stavolta è arrivato un gesto di solidarietà e non lo pubblichiamo, come non pubblichiamo i vaffanculo, ce li pubblichiamo a volte i gesti di solidarietà. No, allora, questo, andiamo con questa mia cazzata, andiamo a chiudere la parentesi dopo il testo di Yorgos Polydoros. Ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Battle Surfer, il brano è The Lord is Monkey, e dopo si ritorna qui e ancora controinformazione, ancora Grecia. We'll be right back. Battle Suffer The Lord Is Monkey. Allora, dicevo, continuiamo con la controinformazione, continuiamo e finiamo anche con la controinformazione oggi, diretta breve, proprio perché non c'è nulla, non c'ho nemmeno voglia di fare provocazione, a chi le faccio le provocazioni? Quindi è fiato sprecato. Ogni tanto mi diverto, anche perché a me piace molto la provocazione, a me piace far vedere che a qualcuno girano le ovaie o i coglioni. Allora, finiamo la controinformazione e la diretta d'azione con oggi, con una lettura divisa in almeno tre parti di un testo dei compagni di Interarma. Il testo è stato deciso di tradurlo e di pubblicarlo su Radiazione, perché Interarma lo reputiamo, insieme a Croce Nera e qualche altro sito, ma pochissimi siti a livello internazionale, come Istinto Selvaggio, Act for Freedom, di cui saluto i compagni che conosco anche personalmente, li ritengo quei pochi siti validi della galassia anarchica. Oggi mi è venuta la galassia, non c'entro un cazzo con la galassia che qualcuno parlava all'epoca, la lettera alla galassia, insomma, puntini sulle ieste che vanno prima. Ora cadiamo nelle provocazioni, basta, cioè, non c'è da provocare, là, quei testi li leggi e sono una provocazione verso chi li ha scritti. Allora, leggiamo il testo di Interarma, che è un annuncio dopo un anno online, testo di compagnia di Interarma che ha quasi sulla fine fanno riferimento anche al testo di Radiazione Croazia, De Profundis Clamavi. Allora, leggiamo il testo dei compagni di Interarma dopo aver completato fiduciosamente più di un anno di attività nel campo della controinformazione e della diffusione di teoria e pratica dell'anarchia nera. Riteniamo valido parlare della nostra esperienza finora, per fare un resoconto, per individuare gli errori, i punti deboli, ma anche per presentare il nostro punto di vista della situazione di controinformazione anarchica in Grecia e all'estero. La controinformazione. Le persone che compongono Interarma sono compagni che, avendo più o meno esperienza non solo nel campo della controinformazione, ma anche in quello della lotta anarchica in Grecia, hanno compreso il bisogno di una struttura centrale, ma in nessun caso centralizzata, di controinformazione. Una struttura che in modo cosciente e mirato diffonde le notizie, riflessioni, analisi e pratiche dell'ambiente anarchico-insurrezionalista in generale. Noi crediamo che questo scopo è stato raggiunto. La presenza di Interarma, in combinazione con i corrispondenti sforzi di pochi ma presenti compagni in Grecia, è riuscita a consolidare, per quanto concerne la teoria, questo corpo di atteggiamenti e posizioni, e soprattutto è riuscita a renderli distinti in relazione alle altre tendenze e posizioni anarchiche. Riteniamo, inoltre, di aver raggiunto un equilibrio tra le informazioni riguardanti gli argomenti attuali da un lato e la diffusione della teoria istituzionale dall'altro, a fine di promuovere non solo la conoscenza del contesto in cui si svolge la lotta anarchica, ma anche per promuovere la dialettica teorica e pratica tra i compagni. È inoltre fondamentale anche il fatto che, mentre rendiamo la teoria anarchica accessibile a chiunque sia interessato, contribuiamo anche ad offrire spunti di riflessione a compagni più giovani. Noi pensiamo che il livello che abbiamo raggiunto dovrebbe essere mantenuto. Contemporaneamente, una continua scommessa è l'evoluzione dei mezzi di lotta che abbiamo, cercando sempre di essere più efficaci possibile. Un secondo obiettivo importante del nostro progetto è stato quello di contribuire a prendere parte della creazione di una rete di progetti di controinformazione non solo in Grecia ma anche all'estero, comprendendo che la guerra contro il dominio è attiva dove sono presenti gli anarchici insorti, è importante per noi promuovere il collegamento, la coordinazione e la comunicazione tra essi. A livello internazionale quindi abbiamo realizzato il collegamento con i compagni di tutto il mondo e stabili canali di comunicazione e informazioni di fatto efficienti, dato che oggi un compagno in Grecia può essere informato in giro di alcuni giorni su qualcosa che è accaduto nelle altre parti del pianeta e viceversa. Capito, compagni che in Italia criticate internet, va bene la critica internet, ma siete anarchici, rallentate sulla critica. Tuttavia, perché servono a questi, serve a questa la controinformazione, non è una lotta, non è un modo di agire, è un mezzo che abbiamo a disposizione e lo rendiamo, cioè il culo che ci facciamo con le traduzioni, sia come Radiazione che altri siti come The Armac for Freedom, la Croce Nera Anarchica e tanti altri siti, lo facciamo per metterlo a vostra disposizione, che poi voi copiate e incollate sui vostri giornali e poi criticate i siti web. Chiusa parentesi. Quindi, nello specifico, pensiamo che si può fare molto di più nel campo della coordinazione per la realizzazione di attività congiunte, oltre all'automazione di pubblicare una campagna internazionale o una chiamata. Stiamo parlando di una congiunta elaborazione, organizzazione e realizzazione di attività di controinformazione che potrebbe essere eseguita su una scala più vasta e più diffondibili, se tutta la rete lavorerebbe su di esse. Una buona idea è la collaborazione delle strutture di controinformazione su delle basi più stabili e permanenti, nella forma di, ad esempio, una rete informale ma stabile e strutturata. Una rete che potrebbe probabilmente includere progetti che operano all'infuori di internet e che collaborerebbero nei casi come quello menzionato sopra, una campagna di controinformazione internazionale coerente e con altri gruppi di presenza anarchica pubblica che non sono legati esclusivamente alla controinformazione. Questa era la prima parte del testo dei compagni di Interarma una valutazione sul loro primo anno online come progetto di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano dei RTPN Bloomlang e poi dopo si torna qui e ancora Interarma e il testo sull'esperienza di un anno. We'll be right back. RTPN Blueslang, ed ora si ritorna al testo dei compagni di Interarma. Per quanto riguarda la Grecia, le cose sono un po' diverse. La controinformazione qui segue una filosofia strutturale generale degli anarchici del paese. La filosofia di natura politicamente varia dei progetti composti da persone eterogenee, dagli anarcocomunisti, sindacalisti, anarchici insurrezionalisti, ai generali e nebbiosi antiautoritari e gli anarco-sinistroidi. Questo ha come risultato un progetto che sembra giornalistico, senza significare che tutti i suoi partecipanti hanno un atteggiamento tale. Per noi i progetti di controinformazione non sono fine a se stessi, ma un mezzo di diffusione di idee e pratiche dei soggetti che li gestiscono. L'ideologia di una coerente ambiente anarchico antiautoritario immaginario deve finalmente collassare ovunque e naturalmente anche nelle strutture e nei raggruppamenti a cui ci riferiamo. In breve, la pubblicazione e l'occupazione con tutte le attività presenti sul territorio greco non ti rendono la mentalità aperta e tollerante, ma giornalista. Il non funzionamento di tali schemi viene dimostrato ogni tanto con le pubblicazioni che sono non solo scollegate tra di loro, ma anche in conflitto. Di conseguenza, l'unica cosa che la gestione può fare è o prendere una posizione chiara o lavarsi le mani politicamente. Un altro problema serio sono gli atteggiamenti sviluppati da alcune individualità che fanno parte di questo ambiente di lotta, atteggiamenti che fanno vedere la controinformazione in termini di media ufficiali e altri progetti qua e all'estero come dei competitivi, scadendo nella meschina denigrazione, l'ovvio complesso e infine nel sabotaggio della diffusione stessa, mentre allo stesso tempo screditano i progetti a cui partecipano. Perciò la rete interna con i progetti di controinformazione rimane nel reame dei desideri e che questi si realizzano le persone coinvolte nella controinformazione in Grecia dovrebbero ribellarsi dal vincolo cieco della nozione di unità fittizia, ma anche eliminare gli atteggiamenti giornalistici e mediatici riconoscendoli, e questo mi sembra molto chiaro che è riferito alle stesse persone su cui Radiazione ha scritto un testo qualche tempo fa di getto, di risposta a quello che avevano fatto loro accusandoci di rubargli i testi e di non mettere le fonti, testo di Radiazione che poi i compagni di Interarma hanno tradotto sia in inglese che in greco e l'hanno diffuso, ed ora, visto che c'è una sorta di collaborazione, perché non ci prendiamo solo i testi da sito a sito, ma c'è anche una corrispondenza con i compagni di Interarma, sappiamo benissimo a chi si riferiscono, e sicuramente a quel famoso sito di multilanguage Google Translate, che poi ovviamente non ha perso tempo a pubblicare un testo su cosa è il progetto di puntini puntini puntini, non lo diciamo, invece diciamo e raccontiamo ancora il testo e leggiamo ancora il testo dei compagni di Interarma con il secondo paragrafo: solidarietà e critica, autocritica. Noi crediamo che la solidarietà con i compagni detenuti o in fuga è una parte integrante della controinformazione anarchica. Questo però avviene sempre in un contesto. Interarma ha impostato il proprio contesto di sostegno a questi compagni in un modo chiaro ed esplicito, fin dal suo primo giorno. In completo accordo con la natura generale del progetto, Interarma come progetto sostiene quegli anarchici con i quali presenta affinità teoriche e pratiche o con i quali trova generalmente campi comuni di lotta. Questo ovviamente non significa che considera tutti gli altri detenuti o fuggitivi anarchici non degni riformisti o qualcos'altro. Questa è una questione, questo semplicemente significa che loro non si trovano nel contesto in cui abbiamo impostato la nostra solidarietà, ed una questione dei loro compagni se li sosterranno o meno. Quindi, invece di denigrare un progetto che ha una posizione complessiva chiarissima su una tensione specifica dell'anarchia, come esprimere la solidarietà, sarebbe meglio denigrare coloro che usano la parola compagno come un passepartout e la parola solidarietà come una caramella, dimenticandosi quando i loro compagni non fanno scelte per loro conveniente, ad esempio azione diretta e guerriglia urbana, o quando non si svolgono sul territorio greco. Perciò, su queste basi, è anche ovvio che questo progetto sostiene gli anarchici che entrano in questo contesto, in altre parole, anarchici insurrezionalisti. Il sostegno viene dato in termini di affinità di percezione, non siamo ipocriti. Il collegamento dialettico tra gli individui è anche un legame per creare delle relazioni che, anche non essendo personali, dato che il contatto fisico è assente, comunque contengono ancora alcuni elementi personali. Ma questo in nessun caso significa che la solidarietà è guidata da loro o che questa critica, se esiste, viene smussata. Questo è lontano dalla solita pratica di sostegno ai nostri amici, tra virgolette, e dall'anticipato plusvalore politico dato da questo supporto. Inoltre non è un segreto che, per quanto ci riguarda, ciò che accade è proprio l'esatto opposto, sia negli ambienti anarchici che nel confronto con lo Stato, che noi siamo informatori. Quindi lo diciamo per l'ultima volta in tutte le direzioni: Inter Arma non è ufficio stampa di nessuno o un'ala politica. Osserviamo e ci creiamo la nostra opinione basandoci sulle dichiarazioni pubbliche e sulle azioni pubbliche. Non ci interessano le questioni personali del microcosmo anarchico all'interno o al di fuori del mondo, finché non si intricano con il significato della lotta anarchica e siamo capaci di vedere una questione da tutti gli angoli, perché in ogni caso c'è una differenza nel modo in cui un anarchico e un poliziotto o un infame giornalista fanno la critica. Dall'alto canto, la solidarietà è un rapporto dinamico e organico tra compagni, senza leader e seguaci, che si afferma costantemente o non si afferma durante la lotta. Non bramiamo né applaudiamo come dei fan, né condanniamo le azioni nella paura. Ogni nostro accordo o disaccordo con i nostri compagni nelle carceri è basato su questo, riguarda noi e la nostra dialettica con loro, ed è chiaramente esposto nel contesto del progetto per coloro che hanno occhi da guardare. Questa era la seconda parte del testo dei compagni di Inter Arma. Allora, ancora una piccola pausa con un brano. Loro sono gli Adult Glue Your Eyelids Together, e poi dopo si torna qui e leggiamo la terza parte dello scritto dei compagni di Inter Arma. Sunday. E questi erano Adult con il brano Glue Your Eyelids Together. Ora si ritorna al testo. Spegniamoli un attimo. Gli Adult. Il testo dei compagni di Interarma, leggendo la terza e ultima parte, un pochino più lunga rispetto alle altre, ma con questa concluderemo il testo e poi arriverà il momento dei saluti e l'appuntamento per la prossima diretta d'azione. Allora, continuiamo. In più, Interarma è responsabile per la pubblicazione delle cose che pubblica e riconosciamo il fatto che anche la semplice pubblicazione di qualcosa è una dichiarazione di un certo livello. A questo punto è vero che ci sono stati degli errori occasionali, omissioni o mosse affrettate. Questa a volte è il risultato di manchevolezze personali o di problemi tecnici del nostro livello di esperienze precedenti su progetti simili, ma anche della nostra sembra falsa percezione che l'ambiente anarchico su tali questioni non si occupa di apparenze, degli equilibri politici meschini e della politica in generale. L'autocritica viene fatta, tuttavia, per portarci avanti e per l'autopunizione o per fare una dichiarazione di ravvedimento. Ma dato che la responsabilità menzionata sopra è presa, Interarma in materia di contenuti è responsabile solo delle traduzioni, pubblicazioni, delle informazioni e dei testi che portano la sua firma. Tutto il resto sono le opinioni di coloro che sono firmati. Non ci nasconderemo neanche dietro le nebulose etichette collettive e non lasceremo mai senza risposta alle cose che toccano i nostri concetti teorici basilari o i valori personali. In ogni caso, se qualcuno vuole così intensamente conoscere la nostra posizione su qualcosa, può o benevolmente commentare qualche pubblicazione o, ancora meglio, contattarci via mail o sito, invece di rilasciare stupide insinuazioni e lordure nei forum pubblici e altrove. Vogliamo qua riferirci a un testo di, recentemente pubblicato da Progetto di Controinformazione e Radiazione Croazia, intitolato De Profundis Clamavi. Facciamo questo per rispondere con atteggiamento dialettico e da compagni ad alcuni punti di critica verso di noi, ma soprattutto perché vogliamo rafforzare con la nostra propria voce e opinioni le principali tesi esposte in questo testo, che anche noi condividiamo. È vero che Interarma ha pubblicato due rivendicazioni della FAI della Grecia, a cui i compagni si riferiscono, e nello specifico una rivendicazione di un attacco incendiario, che contiene un passo dell'intervista data da un particolare detenuto criminale e una rivendicazione di un altro attacco incendiario contro, contro una libreria di proprietà di Adonis Georgadis firmata Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale Comando Orge Saldivia. Per quanto concede il primo testo, concordiamo che a prescindere dei rapporti sviluppatisi tra compagni detenuti e i prigionieri criminali nelle condizioni speciali di detenzione, noi compagni fuori dai dalle mura non abbiamo nessun rapporto con i membri della mafia o le loro reti qualsiasi. La rete del capitale illegale è una parte supplementare della natura economica dell'esistente e i suoi boss non si differenziano in nessun modo dai capitalisti legali. Invece, per quanto riguarda il secondo testo, siamo anche noi d'accordo che, nonostante qualunque rispetto che alcuni di noi possono nutrire per alcuni rivoluzionari socialisti, anarchici o meno, il divario teorico tra noi e loro è immenso. Aggiungeremo qua che ci sono anche altri esempi di simili firme all'interno della rete FAI, come l'annuncio di Hong Kong firmato da una cella autonoma per la lotta di classe rivoluzionaria. Che abbiamo pubblicato con una nota importante, la rivendicazione per il settimo atto del progetto Fenice, o progetto Fenix, firmato da Elfofai, comando Nestor Macno. Il motivo per cui abbiamo pubblicato questi testi è precisamente per la posizione della rete di essere pubblica e chiara in ogni momento. Questo è l'unico modo in cui siamo capaci di identificare le contraddizioni, gli errori e le problematiche, per discuterle, metterle in questione e trovare le soluzioni per far avanzare la lotta della rete in generale. Tuttavia, quello che ci interessa principalmente nel testo di Radiazione è il fatto che pubblicamente pone le basi per una lunga tardata conversazione su una questione molto importante. Queste firme e idee dimostrano che l'ideologia dell'unità in azione ha chiaramente raggiunto i suoi limiti. Come anarchici, data sul legame tra teoria e azione, questo per noi significa che occupiamo noi stessi con l'elaborazione teorica delle nostre posizioni e con metterle in pratica. Questo non significa che siamo lasciati alla mercé del guerriglismo, che afferma che la cornice teorica non è particolarmente importante finché ci sono le azioni. Se la questione fosse stata questa, non ci sarebbe stato bisogno di nessuna FAI, che vuol dire una rete di chiaramente orientata all'insurrezione, all'anarchia nera. Il motivo per cui FAI e le altre reti insurrezionali sono state create è per servire alcune analisi e mete particolari che si differenziano da quelle o altre tensioni anarchiche. Se questo elemento viene a mancare, allora parliamo solo di acronimi vuoti senza un vero significato, adottati semplicemente per soddisfare l'istinto dell'appartenenza al gregge, quindi giustificando l'importante critica fatta dai compagni dell'anonimato. Per di più, il guerriglismo appiattisce le vaste differenze tra le differenti percezioni dell'anarchia, ponendo una certa tattica e mezzi, azione diretta, guerriglia urbana, nel centro della lotta, spingendo altri significati e teorie ai margini della lotta, conferendogli il ruolo di supporto al centro. Questa logica frantuma la vera essenza della teoria pratica, così come blocca lo sviluppo dialettico e teorico e ammassa assieme persone con concetti completamente differenti e in certi casi ostili tra di loro, come nichilisti, individualisti, anarchici sociali e marxisti di varie tensioni sotto l'ombrello immaginario del fronte rivoluzionario. Questa unità, a parte essersi dimostrata sbagliata per gli anarchici nel corso della storia, dato che per questo hanno sempre pagato un pesante tributo in sangue, è anche praticamente irrealistica, perché è impossibile che persone con simili idee diverse creino insieme strategie di lotta che andranno oltre la decisione dove piazzare una bomba o quale banca espropriare. Perciò, in conclusione, pensiamo che sono stati fatti importanti passi avanti nel campo della controinformazione, della diffusione della teoria e pratica anarchica insurrezionale, ma rimane ancora molto da fare. Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i compagni che sostengono il progetto, contribuendo o con il contenuto o fornendo supporto tecnico. Un grande abbraccio a tutti i compagni del mondo, i quali, sfidando la repressione e gli attacchi, gestendo con rabbia e coscienza le radio della guerra anarchica internazionale. Un pugno alzato a tutti i nostri fratelli e sorelle in clandestinità e nelle galere del dominio. Tutto continua, inter arma. E questa era la parte conclusiva della testo dei compagni di Interarma, che fanno un resoconto del loro primo anno come progetto di controinformazione, e alla fine, come avete sentito, fanno riferimento anche al testo di Radiazione Croazia, De Profundis Clamavi, che per carità, lo diciamo qua, non era assolutamente rivolto ai compagni di Interarma, non era rivolto ad altri, sappiamo i siti che bene o male hanno una posizione, sappiamo anche i siti che non ce l'hanno, oppure che vogliono stare con un solo piede in due scarpe. Non è il caso di Interarma, anche se anche loro hanno pubblicato quel paio di rivendicazioni, però ovviamente sta nel loro progetto, che Radiazione non le pubblica, non le pubblica per un motivo, come non abbiamo pubblicato ad esempio, ora mi viene in mente alla libreria, l'abbiamo pubblicata, poi dopo, quando ci siamo informati di chi era Jorge Saldivia, abbiamo cancellato dal sito la rivendicazione. Perché? Per tanti motivi. A parte che Jorge Saldivia era un membro del fronte patriottico cileno rivoluzionario, ma fronte patriottico rivoluzionario cileno. Per quanto riguarda l'uso di acronimi, col tempo ho iniziato a capire che qualcosa sta sbarellando e sta andando un pochino fuori, perché comunque anche per quanto riguarda l'acronimo FAI, Federazione Fronte Rivoluzionario Internazionale, quando leggo quando leggo questo acronimo a fine di un testo in cui si parla di in cui chi lo scrive dice di non essere un rivoluzionario ma è solo per la distruzione totale, allora una domanda me la faccio: è sfuggito quel fronte rivoluzionario internazionale alla fine? Io sono d'accordo, io non sono rivoluzionario, non sono per la rivoluzione, sono per la distruzione totale, e sono d'accordo quando essendo miei anche quei testi in cui i compagni testi rivendicativi affermano di essere contro la, non essere rivoluzionari ma sono per la distruzione totale. Noi non dobbiamo ricreare nulla, noi dobbiamo solo distruggere e poi dopo si vedrà, però per il momento distruggere quello che c'è. Non c'ho i piani, non c'ho lo schemino, non lo so, per ora mi interessa distruggere quello che c'è, poi dopo si vedrà. Però come dicevo, poi mi vengono i dubbi quando poi alla fine di un testo leggo Fronte Rivoluzionario Internazionale, un acronimo che si è andato ad aggiungere alla FAI dopo un po' di tempo, e che è su cui è l'unica cosa su cui non sono mai stato d'accordo, il Fronte Rivoluzionario Internazionale. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, ci sarebbe da chiacchierarne, però chiacchierarne io che sto qua a parlarne ad un microfono o scrivendolo attraverso un testo e pubblicando su Radiazione ci avrebbe poco senso, sarebbe bello discuterne con i compagni che hanno rivendicato quell'acronimo, e non è detto che non avverrà, speriamo avverrà presto, perché sto parlando chiaramente dei compagni che sono stati arrestati e sono detenuti per aver rivendicato quell'acronimo. Allora, con questo è tutto. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che non è per lunedì. Io all'inizio della diretta ho detto lunedì prossimo l'appuntamento con Marcello. Lunedì, la diretta di lunedì viene spostata a martedì o mercoledì, e questo lo saprete nei prossimi giorni. Per chi è di Napoli, do un appuntamento a chi è di Napoli o provincia o nei dintorni, do un appuntamento per una cosa che si farà lunedì, è il motivo per cui Radiazione non ci sarà, praticamente al Perditempo, alla libreria e bar Perditempo, il sottoscritto proietterà il film di Michael Redford 1984 in una chiave molto elettronica, praticamente verrà mandato il film e sotto ci sono io live, e quindi sarà una rivisitazione in chiave elettronica del film, molto interessante. Il film è molto interessante, la chiave elettronica non lo so, però il film per chi è di Napoli glielo consiglio. Questo è tutto, quindi nei prossimi giorni leggerete l'annuncio che vi sarà il giorno della diretta con la lettura insieme a Marcello e per Nessuno Ci Salva. Con questo è tutto, Radiazione finisce qua, state buoni. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni.